Ogni giorno, all'ora sesta, c'è la musica che pesta. Muovi un po' la testa. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. A cosa? Ginnastica mentale. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Oh! Ciao Gigi, mi piacerebbe molto ascoltare Vorrei fare una canzone. Perché? Perché appunto? Perché con quelle note e quelle parole, con quelle note e quelle parole, con quelle note e quelle parole, prendo il volo. Laura. Vorrei fare una canzone da suonare con la chitarra per le strade e le persone. Vorrei fare una canzone per donare a tutto il mondo un poco di immaginazione. Vorrei fare una canzone che trasmetta un ideale se le cose vanno male. Vorrei fare una canzone anche solo per cantare, anche solo per cantare. Con la chitarra per le strade alle persone.

Ciao Gigi, puoi dire a mia madre Sara di non disturbarmi quando ti ascolto? Chiara 94. Hai capito? Che cosa? Spiega cosa hai capito. Allora, gli spiego. Niente spiego. Giù, ma sta musica, ma esce. Scrivermi. Il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente: 333-64-67-662. 333-64-67-662. 333-64-67-662. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Vorrei dedicare Gain a Irene. Non voglio vederla mai più. Di sicuro. Grazie Gigi, la tua musica mi dà la forza di andare avanti anche nei momenti più difficili. Bogacci via questo. Nicolò da Bologna. Caro Gigi, sono Tony da Milano e vorrei che Gianna di Sedriano tornasse con me. Tony da Milano, Gianna di Sedriano, Tony da Milano, Gianna di Sedriano. Gigi, vorremmo dedicare Drifting Sideways ad una persona specialissima. Ma io? Che oggi compie gli anni. Anto, ci manchi. Ti vogliamo troppo bene. È vero, è vero. Le sorelline emotive. when I'm floating forever and the day drifting sideways. I'm dying here like a waste. Set my eyes on you, girl. Dive deep into your world. Watch my life go down the drain. Cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Sono Enza 75. Vorrei dedicare a mia sorella Celeste Tanz 84 il padrino. Ce la puoi fare? Yeah. Buongiorno, ti chiederò di ricambiarmi il servizio, ma fino a quel momento considero un dono in occasione delle nozze di mia figlia. Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano sabato 2 settembre alle ore 21 alla discoteca Seychelles, Schio, Vicenza. Sì. Schio, Vicenza. Sì. Schio. Ascoltare il bootleg di Big City Life e lo vorrei dedicare al mio amore. Ma chi è? Bello come il sole. Ma chi è? Che mi fa sempre battere il cuore. Ma capito. Mirko. Cammino e Gigi D'Agostino mandano un saluto, una pennellata e un colpo di martello a Donna Antonella Baby Dolls del Zora. Donna Antonella Baby Dolls del Zora. Thank you.

time away, but always the same is my heart. When I saw your face, I think of you, warm embrace. I see your face, oh, what I feel. Just tell me that it's real. Dedicare Thank You For All a te, per dirti grazie per tutte le emozioni che ci dai ogni giorno. Fonzo da Montecorvino, Rovella. Volevo dedicare Thank You For All a tutti noi del forum e a te Gigi, perché abbiamo condiviso grandi emozioni in questa magnifica estate, dal 24 giugno ad oggi. Sì, sì, ho capito. Siete tutti dentro di me. Tutti. Sti cazzetti. Robby B. Giordano da Santa Marinella. È dal 93 che ti seguo. Vabbè, certo. Sì, sì. Vorrei ascoltare la tua canzone Gigi's Violin e la dedico al mio amico Alex e a tutta la comitiva. We'll be right back. sono Alessio da Narni. Vorrei tanto ascoltare semplicemente, perché è il brano che più mi fa sognare. Cioè, questa è forte questa, prendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Sono Sisto da Cosenza. Vorrei dedicare Gigi's Love alla mitica Natalina, perché la amo ancora e la amerò per sempre. Ah. Ti prego, leggilo. Vabbè, scelto. D'Agostino mandano un saluto, una pennellata e un colpo di martello a Anita di Ragusa, Luchino, Milano, Lia, Lori 70. Ma ciao proprio, voce del verbo te saluto. Dai che famo notte. Sono Andrea di Como. Puoi dedicare Don't Cry Tonight a Deborah? Sì. Felicità e gioia a tutti. Un bacio a Elena, a cui dedico Music and Echo Deep Inside. Ecco qua, va. Grazie, Claudia. Grazie, Claudia.